1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 7:19 minuti siamo pronti con la rassegna stampa. Vi ricordo che oggi avremo ospite Yoram Gutgeld alle 8:40, è responsabile, è uno dei consiglieri economici del governo, è responsabile della spending review, cioè la revisione della spesa pubblica. E allora, che dire, andiamo a vedere come titolano i giornali oggi. Siamo qui in questo martedì 12 aprile, intanto le aperture, chi sceglie l'apertura sulle banche, Il Sole 24 Ore, banche, maxi fondo da 6 miliardi, via libera al piano Atlante che dovrà ricapitalizzare gli istituti in difficoltà e acquistare i crediti in sofferenza. Così anche La Stampa, un fondo da 6 miliardi per salvare le banche, pensioni, giallo nel DEF, il giallo nel DEF delle pensioni. Il giornale, banche, cambia tutto, ricapitalizzazioni, sofferenze, crediti alle aziende, in arrivo maxi fondo da 5 miliardi. Poi la politica, Renzi e le riforme, mi gioco tutto sul referendum, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. E così invece il titolo trionfale e trionfalistico dell'Unità, prima Repubblica addio e senza rimpianti alla Camera, ultimo voto per la riforma. Repubblica invece, il voto un dovere, sulle trivelle l'effetto consulta, e cioè il Presidente della Corte Costituzionale che dice il voto al referendum per i cittadini è un dovere. Anche il Fatto Quotidiano apre su questo, votare è un dovere, Colle e consulta, ripetizioni di educazione civica a Renzi. Trivellata è il titolo del Manifesto, mentre il Presidente della Corte Costituzionale lo bacchetta per la linea astensionista, il Premier assesta l'ultimo colpo alla Carta Costituzionale, trivellata appunto per il Manifesto. Avvenire, l'impero dei muri spezza l'Europa, è l'Austria che, tra poco vedremo, decide di costruire un muro. Migranti, il muro del Brennero è anche il titolo del Messaggero, mentre Libero, Mister Expo non paga i debiti, la società che ha gestito l'evento non salda i fornitori e decine di aziende in crisi rischiano la chiusura, alcune hanno già chiuso. Ma partiamo appunto dal Brennero, anche per riallacciare un filo con quello che raccontavamo ieri ospitando il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Compaccer, che diceva, beh no, speriamo davvero che l'Austria non decida di mettere, ripristinare i controlli al Brennero, sarebbe una decisione unilaterale sbagliata. Detto fatto, nel giro di poche ore l'Austria ha annunciato la creazione di una barriera al Brennero, una barriera doganale, una barriera proprio anche con filo spinato e muri per ripristinare di fatto in maniera temporanea la frontiera. Eccolo qui, Austria, una barriera al Brennero, iniziati i lavori al confine, cabine sulle autostrade, poi arriverà anche una rete di 250 metri, l'obiettivo di Vienna è quello di impedire il temuto flusso di migranti in estate dall'Italia. Così Andrea Nicastro racconta a pagina 8 del Corriere della Sera la notizia di cronaca con cui anche Repubblica apre, nel senso che l'apertura del giornale a pagina 2 e 3. Sul tema immigrazione però vi voglio segnalare un articolo molto interessante, un'inchiesta di Attilio Bolzoni a pagina 4 di Repubblica, e riguarda un fronte nuovo dell'immigrazione, Trapani, e racconta Bolzoni la corsa all'affare migranti. Per colpa di un prete, scrive Bolzoni, una lontana città di frontiera si è scoperta capitale italiana dell'accoglienza. Di Don Sergio parleremo dopo. Intanto diciamo che grazie ai migranti qualcuno sta diventando sempre più ricco. Li aspettano dopo ogni naufragio, li cercano uno per uno, fanno carte false per trascinarli nelle loro case. A Marsala, Petrosino, Erice, Salemi, Mazzara del Vallo, Alcamo. È resuscitato perfino il mercato immobiliare, gente che compra vecchi fabbricati. Li comprano in contanti per trasformarli in residence, bed and breakfast, villette plurifamiliari, qualunque altro tipo di locale sotto il cui tetto possa trovare ricovero, l'ultimo carico venuto dal mare. Resta da capire se siano stati certi trapanesi a copiare dal Salvatore Buzzi di Mafia Capitale che diceva con gli immigrati si fanno molti più soldi della droga, o se invece sia andata al contrario, con la Sicilia ancora una volta laboratorio anticipatrice di tendenze criminali. Di sicuro, spiega il procuratore capo di Trapani, questo è un modello molto simile a quello di Roma. E non è, nel dire questo, ovviamente un complimento. Carabinieri e polizia ricostruiscono la mappa con tutti i personaggi del racket, cooperative, opere pie, istituti di assistenza e beneficenza che fanno sostanzialmente riferimento a tre cartelli. Dietro al primo gruppo c'è Giuseppe Gianmarinaro, ex deputato regionale che comandava Salemi. Nella cerchia di Gianmarinaro ci sono prestanome di uomini politici locali che in passato hanno intrallazzato nell'edilizia discariche eolico e fotovoltaico. Poi il secondo gruppo, capitanato dall'ex deputato regionale Onofrio Norino Fratello, uno che qualche anno fa ha patteggiato una condanna a 18 mesi per concorso esterno e rimase famosa la sua battuta davanti al giudice «Se patteggio posso ricandidarmi?». E il terzo gruppo è quello di Giuseppe Scozzari, alla testa di un colosso per la gestione nei centri di accoglienza. E racconta, insomma, Attilio Bolzoni in questa inchiesta i nuovi affari sui migranti a Trapani. Invece, cari amici, spunta un dossier anonimo, per la verità, ma che oggi viene replicato e riproposto da tutti i giornali, contro l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana. In questo dossier anonimo che è finito ai magistrati ci sono una serie di accuse sul capo di Stato Maggiore della Marina su cene di lusso, uso disinvolto di elicotteri della Marina, ma anche festini con donne compiacenti, carine, disponibili, portate con elicotteri sulle navi. O quella famosa cena a New York in cui accolse gli invitati a un cocktail a bordo in sella a un cavallo bianco appositamente noleggiato. Scrive Fiorenza Sarzanini di questo dossier a pagina 13 del Corriere della Sera, ecco le spese milionarie, il dossier accusa su De Giorgi, le feste e l'uso di elicotteri, l'arrivo in allegra compagnia, gli spostamenti da una parte all'altra dell'Italia in elicottero usato come taxi e ancora gli incursori che improvvisamente sono stati allontanati dal comando di Varignano perché durante gli scherzi del 2 giugno con palloncini pieni d'acqua schizzarono Sua Maestà De Giorgi per sbaglio. Insomma, si racconta in questo dossier anonimo, finito ai magistrati e finito su tutti i giornali, festini a bordo e spese folli. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 7 del Messaggero, a pagina 7 per l'appunto, o anche pagina 20 di Repubblica, il dossier contro De Giorgi, tutte le spese folli della Marina. E finisce tutto sui giornali. Non sono spese folli, invece. Quelle che Libero racconta che alcuni deputati del PD fanno come versamento al proprio partito. Franco Becchi si è andato a vedere un po' quanti soldi danno questi deputati del PD ai vari partiti. Renzi, sapete quanti soldi versa del suo stipendio? Renzi al PD? Zero. La famosa O-18. Così nel 2014 anche nel 2015. Eccolo qua, il contributo di Matteo Renzi al partito. Poi dice uno... va alla direzione del partito zero, mentre più di lui Maria Elena Boschi, che versa 18.000 euro, quota 2015, l'anno scorso era 23.000, vabbè, un piccolo sconticino, però 18.000 li versa. Bersani invece versa 22.000 euro al partito, Roberto Speranza 23.500, Cuperlo 18.000, vedete quelli cosiddetti oppositori, no? Gotor 24.000, Ettore Rosato addirittura 57.000. Perché anche contributi a federazioni locali PD. Renzi zero. Comunque, se volete vedere quanto versano tutti i deputati del PD come contributo al proprio partito, ecco, li trovate su Libero. Mentre vi devo segnalare l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo che vi fa tenere le mani sul volante, e vi ricordate, se siete, mi raccomando, in treno, posizione d'atterraggio in emergenza aerea, o mani sui braccioli, se volete, è il racconto che il Corriere della Sera con Andrea Pasqualetto fa a pagina 21. Meditate, gente, meditate. Eccolo qua. Denunciò il fratello pronto a entrare nell'ISIS e oggi dice: gli islamici mi evitano. Capita tutto a Monselice, in provincia di Padova. Mai avrebbe immaginato di ritrovarsi solo, al verde, rifiutato. Perché Fuad un lavoro ce l'ha, perché nella sua amata Italia è sempre stato apprezzato per impegno e serietà, e perché il giorno in cui decise di denunciare il fratello minore, Adil, che iniziava a simpatizzare per l'ISIS, minacciando peraltro di far esplodere Roma, pensava di aver fatto la cosa giusta. Per lui, ma per l'Italia anche. Ma a pochi mesi da quella denuncia, il 42enne marocchino Fouad Bamaarouf, operaio a Monselice, dottore in legge nel suo paese, ha paura e dice: chiedo aiuto, da quel giorno gli arabi mi guardano male, non mi saluta più nessuno, mi arrivano telefonate anonime, esco di casa solo per andare al lavoro e fare la spesa, mi sto chiedendo se ho sbagliato a dire quelle cose ai carabinieri. Gli arabi sono i suoi concittadini di fede islamica, coi quali dovrebbe convivere a Monselice, qualche centinaio di persone. A volte Fuad si pente di quel che ha fatto, a volte no, dice: mio fratello non stava più bene in Italia, aveva preso una brutta strada, avevo la sua responsabilità e ho dovuto denunciarlo. Ma ora, dice, rischio di perdere il lavoro e soprattutto mi evitano, nessuno mi parla, nessuno mi vuole più stare a fianco. Eccolo qua, segnatevelo e meditate. Denunciò il fratello pronto a entrare all'ISIS e ora dice: gli islamici mi evitano. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, l'attaccare dell'informazione. Ah, vabbè, insomma, comunque voglio rispondere a un ascoltatore che mi dice: sei disonesto intellettualmente, Renzi non versa nulla al PD perché non è parlamentare. Ma in realtà anche Rosario Crocetta, che versava 14.000 euro l'anno scorso, quest'anno versa zero. Ci sono, volendo può versare, volendo no, ma poi cosa c'entra? Cioè non è... è una scelta, voglio dire, oltre che darlo come parlamentare potrebbe darlo. Poi le cifre sono tutte lì su Libero, non me le invento io, e poi disonesto, dillo a tua sorella, insomma, giusto così per gradire, intellettualmente o no. Va bene, caro ascoltatore, allora eccoci qua. Dicevamo della politica e di Renzi. Ieri Renzi è andato a Montecitorio per affrontare l'ultimo voto, quello finale sulla riforma alla quale lega gran parte del suo destino politico, perché ha detto dopo il referendum, che ci sarà a ottobre, se il referendum non passa, l'ha ribadito più volte, la mia carriera politica finisce. E il discorso di ieri è stato nell'aula vuota. Perché? Perché la gran parte delle opposizioni hanno lasciato l'aula. L'arringa di Renzi, dice così a pagina 2 il Corriere della Sera. Tra l'altro, nel retroscena di Maria Teresa Meli, il leader PD conta ora solo per lui il referendum. Ma non caccerò i contrari, non cacceremo nessuno, non ho mai cacciato nessuno, non è il mio stile, dice Renzi ai suoi collaboratori. Chi voterà contro se ne assumerà tutte le responsabilità, ma io non ho certo intenzione di procedere per sanzioni, così spiega il Presidente del Consiglio. C'è anche un bell'articolo di una pagina di Fabrizio Roncone, a pagina 3, che racconta un po' il clima di un Renzi che va alla buvette della Camera, cioè il bar, diciamo, detto però chiamato pomposamente, come si chiama, buvette alla Camera. E alla prima domanda dei cronisti: allora è prontissimo, presidente, guardi che troverà un'aula vuota. Perfetto, risponde lui. Però a questo punto Filippo Sensi, il suo portavoce, inizia a sbracciarsi da dietro con un sorrisone diplomatico. E allora Renzi aggiunge: no, scusa, come perfetto? Cioè, no, scusate, siamo addolorati, dispiaciutissimi. Oh, e che devo dire, visto che nessuno ha l'aria di credergli? Poi la versione ufficiale: gli assenti, mi spiace per loro, mi spiace per chi non ci sarà, perché parlerò ed entrerò nel merito della riforma, che è pazzesca, una cosa enorme, la prima autoriforma del Parlamento di un paese occidentale, un fatto strepitoso. Così Matteo Renzi. Certo, però, interessante anche quello che racconta il Messaggero, a pagina 5, con Alberto Gentili, di un Matteo Renzi, racconta di un Matteo Renzi che non è tipo da battere in ritirata. La Camera dunque rilancia questo guanto di sfida. Il referendum di ottobre sulla riforma costituzionale deciderà il suo destino e quello del governo, dentro o fuori, vincente o sconfitto. Una sorta di plebiscito dunque, Renzi sì o Renzi no. Questo sta trasformando questo il referendum. Combatterò a viso aperto, ha scandito il premier. E tra l'altro racconta Alberto Gentili, chi ha parlato con lui racconta, un po' sorpreso, di aver trovato un premier convinto che non esistano complotti, accerchiamenti, assedi, e di averlo trovato anche ottimista sul referendum di domenica. Questa è la battuta che viene attribuita a Renzi da parte del Messaggero. Non verrà raggiunto il quorum. In molte regioni, soprattutto al nord, quel quesito sulle trivelle non è sentito, grazie a Dio. E a proposito delle trivelle, ieri è intervenuto il Presidente della Corte Costituzionale nella sua conferenza stampa. C'è stata anche una domanda sulla questione del votare o non votare al referendum, e Paolo Grossi, presidente della Corte Costituzionale, ha detto in sostanza: votare è un dovere. Votare è un dovere per essere considerati pienamente cittadini. Poi ovviamente cosa si debba votare, quindi nel merito questo ogni cittadino lo può decidere da sé. Comunque il Fatto Quotidiano mette in ampio risalto questa notizia: Consulta e Colle, doppio colpo contro l'astensione, perché anche Sergio Mattarella fa sapere che andrà alle urne, e quindi su questo si combatte. Tra l'altro il Fatto Quotidiano fa sapere che al momento, secondo un sondaggio, pare che si possa arrivare a un 30% di quorum, e quindi un quorum abbastanza lontano da quello del 50% più un voto che serve per rendere il referendum valido. Anche per il Corriere della Sera: trivelle, consulta in campo, bisogna andare a votare. Magistratura italiana egregia, dice anche il Presidente della Corte Costituzionale, che appunto sul tema referendum ha detto: si deve votare, ogni cittadino è libero di farlo nel modo in cui ritiene giusto, ma credo si debba partecipare al voto perché significa essere pienamente cittadini, fa parte della carta d'identità del buon cittadino. Questo è il Presidente della Corte Costituzionale. Ma ecco qui, come detto, il Sole 24 Ore apre sulla questione delle banche. 6 miliardi, alcuni giornali titolano invece 5 miliardi. Comunque, insomma, è il progetto Atlante, vale a dire il nuovo fondo per salvare le banche. Caro Mauro Meazza, arrivano soldi freschi, 6 miliardi, dove si va a ritirare? Caro Alessandro, buongiorno, stai tranquillo. Intanto ricordati di andare a ritirare oggi con il Sole 24 Ore i tuoi soldi. Ah, cioè, sì. Ecco, vuoi corso di educazione finanziaria, così eviti anche di fare queste domande un po' così campate per aria. Comunque a pagina 2-3 ti spieghiamo come funziona. Tra l'altro, oltre al Fondo Atlante, che deve intervenire appunto per ridurre le sofferenze, NPL, sì, non performing loans, insomma i crediti che non si riesce più a prendere, devi sapere che arriverà anche un decreto legge per facilitare le operazioni di recupero, e lo riferiamo appunto a pagina 2, scrive Davide Colombo. Leggi appunto la pagina 2 e la pagina 3, ma ti consiglio soprattutto non dimenticarti di leggere il corso di educazione finanziaria oggi, Investire in azioni, e non venire a chiedermelo al bar, vai in edicola a ritirarlo. Come solo sempre, oggi. Come sempre. No, perché poi so che ti scordi, o fai finta di scordarti. Sappi che c'è anche un'altra misura che è attesa per maggio, per l'ACE. Ora tu forse non sai, non ricordi precisamente cos'è. Ma che succo, non facciamo dello spirito discutibile. È l'aiuto per la crescita economica, cioè una misura fiscale per favorire la patrimonializzazione delle imprese. Si vuole fare un tagliando, cioè rafforzare questo aiuto, e ne riferiamo oggi. Il decreto di intervento, diciamo, è atteso per maggio. Oh, poi sai che ieri c'è stato tutto lavoro lì proprio al Sole 24 Ore, quindi oggi sul Sole parliamo parecchio di lavoro e anche di queste norme che si stanno discutendo sullo smart working, cioè questa modalità nuova di lavorare che non necessariamente prevede la presenza in azienda, che è una delle novità contenute in queste nuove misure. Un attimo che devo fare una comunicazione importante, sì. Qui Radio Fisco. Attenzione. Per lo spesometro confermata la scadenza per l'invio al 20 aprile. Tu non hai capito, io neanche, però ti assicuro. Però che il compleanno di mia figlia me lo segno. Perché... molti auguri, allora può combaciare, lo puoi dire anche alla bambina che combacia con la scadenza per lo spesometro. Ne sarà felicerrima. Non lo so. Intanto ti voglio dire anche che abbiamo delle ulteriori indicazioni sul 730 precompilato. Attenzione se avete rimborsi oltre i 4.000 euro, perché come noto sono soggetti a una sorta di verifica preventiva e quindi questo potrebbe ritardare l'erogazione del rimborso medesimo. Ma ti spieghiamo tutto nelle pagine di... Norme e tributi. Oh, bravo, così ti voglio. Molto brillante. Ricordati anche che oggi parte, si apre il Salone del Mobile e te lo spieghiamo in Imprese e Territori. Sì. E ricordi soprattutto che essendo martedì, oggi abbiamo la pagina... Condominio. Oh, benissimo. E domani invece... Beh, adesso 16 tutto pagine speciali. 16 pagine speciali sul codice della strada. Come mai te ne parlo ora? Perché arriva il mio saluto abituale. Traffico! Alessandro Milan, se fossi il tuo compagno, quante botte ti darei? E va bene così, ce n'è per tutti i gusti. Allora, cari ascoltatori, le amministrative... Giachetti fa un'intervista al Fatto Quotidiano, pagina 9, parla della questione dei candidati. Sapete che ci sarà la solita trafila di candidati e tutti noi giornalisti a cercare di scovare quelli che hanno magari avuto qualche problema con la giustizia. Beh, eccolo qui, Giachetti dice... Tutti i candidati miei, intervistato da Luca De Carolis, dovranno presentare un certificato di carichi pendenti e sottoscrivere un codice d'onore, ossia un documento in cui assicurano che non sono indagati e non hanno conflitti di interesse. Devo garantire in ogni modo che le liste siano pulite. Non nutro pregiudizi, ma per ogni lista ci saranno 48 nomi, non posso conoscerli tutti. La lista del PD la stilerà interamente il commissario romano del partito, Matteo Orfini, non ci metterò bocca, ma i parametri sono questi, quelli appena spiegati, insieme alla richiesta di un reale rinnovamento. E poi dice, presenterò il programma il 21 maggio, costruirò la futura mia giunta, dovessi essere sindaco ovviamente, il 21 maggio, sarà composta prevalentemente da politici. E poi dice, non farò cene, non accetterò finanziamenti in contanti, ma solo finanziamenti da privati, tracciabili tramite bonifici bancari o carta di credito. E infine, non farò manifesti abusivi, se qualcuno... delle mie liste ne affigge in spazi non autorizzati, sarò il primo a fargli campagna contro. Insomma, questo è quello che dal punto di vista della legalità e delle liste annuncia Marchini. Mentre Sala, che è andata un giorno da Pecora a dire, tra le altre cose, che si è fatto una canna quando aveva 15 anni e ha cantato Bandiera Rossa in diretta, però Libero dice e scrive che in prima pagina questo tema, che è un po' lo strascico dell'Expo, Mister Expo non paga i debiti, la società che ha gestito l'evento non salda i fornitori, e Marianna Baroli racconta in prima pagina di Libero per esempio la storia della Tecnochem, azienda bergamasca fondata nel 77 specializzata nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per l'edilizia attraverso componenti chimiche, che è fallita, tra l'altro aveva una commessa mai pagata, dicono alla Tecnochem, proprio all'Expo. Fallita questa azienda che si trova in liquidazione, solo uno dei tanti pezzi del mosaico di realtà imprenditoriali che hanno contribuito all'apertura al successo di Expo 2015, oggi pagano le conseguenze della mancanza di fondi all'interno delle casse della società al termine della kermesse. Allora, eccola, la Tecnochem a Barzana impiegava 65 persone fino al 2015 e dopo una prima fase di tagli, l'addio a 10 lavoratori, nel gennaio 2016 si è dovuti ricorrere alla cassa integrazione, insomma, e poi il destino di una situazione sempre più complicata fino alla chiusura. Non è arrivato un euro dalla commessa all'Expo. Fallita la prima azienda, strozzata da 2 milioni di... crediti, in realtà. Può può sembrare strano, ma così. E questo lo racconta Libero in prima pagina. Oh, poi torna in prima pagina la questione dell'aborto, perché il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale a cui aderiscono 47 stati membri, non è il Consiglio europeo, non è l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, accogliendo un ricorso della CGIL italiana, secondo la quale ci sono troppi medici obiettori di coscienza e quindi si fa fatica ad accedere all'aborto per quel che riguarda le donne, il Consiglio d'Europa ha accolto questo appello della CGIL dicendo abortire in Italia è troppo difficile. È partito il dibattito, prima avevamo ospite Maria Dinolfi che ha detto fosse per me io auspicherei il 100% di medici obiettori di coscienza in Italia, 100%, tutti i medici obiettori vorrebbe Maria Dinolfi. E va bene, trovate oggi ovunque il dibattito su questo tema, l'aborto in Italia. Mentre Cameron è andato a difendersi, come raccontano tutti i giornali, il Sole 24 Ore lo fa con Leonardo Maisano a pagina 7, a difendersi per i Panama Papers. L'imbarazzo di Downing Street non c'è stato, perché Cameron, tra l'altro, a un certo punto ha parlato di tasse, ha detto ho pagato tutte le tasse, il fondo di mio padre era tassato. E poi soprattutto ha detto questa frase che oggi trovate su tutti i giornali: la ricchezza non è una vergogna, ricchezza non è una parola, non è una parolaccia, e la creazione di ricchezza e le ambizioni non sono parole offensive, sono strumenti per aumentare la prosperità e la crescita, vanno anzi agevolate. David Cameron. Eccolo qua su tutti i giornali. La ricchezza non è un male, il titolo di Repubblica, per esempio, che trovate a pagina 15. Mentre è sicuramente un male quello che ho letto in prima pagina della Stampa. Ieri vedevo circolare anch'io questa foto e giustamente il buongiorno di Massimo Gramellini è dedicato a questa foto che trovate su internet. Sono quattro adolescenti rom che sono stati pizzicati a fare una spaccata a una vetrina, sono stati arrestati dalla polizia, ma fanno questa foto tutti sorridenti con il pollicione. Yeah! Perché? Perché hanno appena saputo e sanno che in Italia tanto in galera non si va, cioè sono stati rilasciati subito, le leggi, non si può, di qui, di là. Eccolo qua. C'è poco da ridere. Immaginate la foto di quattro rom appena presi dalla polizia che fanno il pollice, come dire, yeah! E scrive Gramellini: quattro adolescenti rom che sguainano impavidi pollicioni davanti alla fotocamera non sono una rock band, ma una band e basta, immortalata nella sala d'aspetto di un distretto di polizia. Hanno divelto un tombino a Venezia alle 4:30 di notte e lo hanno scagliato contro la vetrina di un negozio che esponeva due nuovi modelli di iPhone. Sono stati presi mentre scappavano con la rifurtiva. Il capo di loro ha 15 anni, gli altri anche meno. Dire che non sembrano pentiti è un eufemismo e che non sembrano neanche preoccupati delle conseguenze. Si comportano da impuniti perché sanno che tanto nessuno li punirà. Infatti, subito dopo la foto, sono stati rimessi in libertà. Ora, non dico di mandarli in carcere dove imparerebbero solo a diventare peggiori, ma cosa vieta di spedirli 2 ore al giorno a fare gli spazzini in un parco pubblico o i camerieri alla mensa dei poveri? Altrimenti cresceranno con l'idea che la vita sia un luogo senza regole, dove ogni azione non segue mai qualche forma di reazione. Voglio vivere in uno Stato che non faccia paura, ma uno Stato che non incute più rispetto si merita quei pollicioni, simbolo della sua resa. Così il buongiorno di Gramellini. Effettivamente però un po' di galera non farebbe male, eh? Aggiungo io questo Gramellini, non lo dice. Va bene, siamo arrivati anche a questo, io lo sapevo. Lo temevo, l'ho detto da mesi, e cioè che il Milan arrivava a veder titolato Milan di Brocchi e ce l'abbiamo fatta. Pare che oggi sia l'esonero di Mihajlovic. Milan via al piano B, questo è il titolo della Gazzetta, e anche il piano B a questo punto mi inquieta alquanto. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Oggi un'intera pagina, intera, su Repubblica. Antonio Scuteri per un video sulla carbonara fatta in Francia, un video che sta facendo dividere Italia e Francia perché c'è il dibattito. Quella non è la vera carbonara. Ma chi se ne frega?